reportage. Per una nuova PAC, l'Europa verso una produzione di cibo sostenibile, di Valeria Grandi. Il 77% del territorio dell'Unione Europea è costituito da aree rurali. Il 47% è rappresentato infatti da terreni agricoli e il 30% da foreste. Gli abitanti di queste aree, tra comunità agricole e altri residenti, sono circa la metà dell'intera popolazione dell'Unione e ogni anno circa il 40% del bilancio europeo è stanziato a favore dell'agricoltura. Questi dati sono già sufficienti per capire l'importanza che ha il settore agricolo in Europa, tra campi coltivati e allevamenti, dal punto di vista economico, dell'occupazione, ma anche dell'impatto sull'ambiente. La popolazione mondiale arriverà entro il 2050 a 9 miliardi ed è necessario produrre sempre più cibo, ma anche farlo in modo più sostenibile. Per capire meglio la portata del problema, ci rivolgiamo a Riccardo Valentini, membro del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici. L'agricoltura in questo periodo, proprio in questi ultimi 50-60 anni, chiaramente per produrre più cibo per tutti si è intensificata, ha utilizzato moltissimo fertilizzanti, pesticidi, risorse idriche. Diciamo oggi l'agricoltura è il terzo settore più importante per le emissioni di gas serra e quindi ha un contributo importante per il riscaldamento globale, il primo settore per l'energia, il secondo i trasporti e l'agricoltura è quasi vicina al contributo dei trasporti mondiali. Quindi da questo punto di vista negli ultimi proprio 50 anni abbiamo raddoppiato le emissioni di gas serra. L'altro dato che preoccupa è la quantità di terra disponibile per l'agricoltura. Noi avevamo proprio all'inizio degli anni 60 circa 1,7 ettari per capita appunto disponibile per l'agricoltura e oggi siamo arrivati a 0,6, quindi abbiamo praticamente più che dimezzato la quantità di terra che abbiamo a disposizione per produrre cibo. Dal 1962 l'Unione ha avviato la politica agricola comune, la PAC, che con piani pluriennali stabilisce regole e linee guida per sostenere l'attività degli agricoltori e rispondere alle esigenze alimentari di 500 milioni di consumatori europei, come ci spiega Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. La politica agricola comune rappresenta, ancora oggi, va rappresentata per tutta la storia, da quando è nata, alla fine degli anni 50, uno straordinario strumento di sostegno per l'agricoltura europea. Possiamo dire, in senso generale, questo è un dato più o meno a livello europeo preciso, che gli aiuti europei rappresentano un quarto del reddito, mediamente, del reddito degli agricoltori europei. Quindi c'è un sostegno all'agricoltura molto forte. Le ragioni ovviamente risiedono in una serie di obiettivi che il Trattato di Roma già si diede a fine degli anni 50, cioè quello di assicurare una produzione stabile, evitando quindi la totale dipendenza dall'estero per molte produzioni agricole, assicurare un reddito dignitoso agli agricoltori e assicurare prezzi convenienti per i nostri consumatori e la qualità dei nostri prodotti sani e garantiti. La politica agricola comune 2014-2020, che ha a disposizione 370 miliardi di euro, circa 52 all'anno da distribuire tra i 28 paesi membri, è stata ampiamente riformata rispetto a quella precedente, assegnando una larga fetta degli aiuti finanziari solo alle aziende agricole che rispondono a criteri del cosiddetto greening. Ancora De Castro. In questo grande lavoro che abbiamo fatto è stato introdotto una novità assoluta, che è il greening, cioè abbiamo obbligato il blocco di aiuti del primo pilastro, cioè gli aiuti diretti, li abbiamo vincolati per una fetta importante, perché rappresenta il 30% dell'intero ammontare degli aiuti diretti, al greening, cioè all'obbligo di pratiche ecologiche sostenibili. In sostanza abbiamo detto questi aiuti li diamo agli agricoltori a patto che gli agricoltori però attuino queste pratiche. Chi non lo fa perde il 30% degli aiuti. Che cosa si intende esattamente per aiuti diretti? Aiuti diretti sono degli aiuti che vengono dati in funzione della dimensione dell'impresa, della superficie dell'impresa. Ogni ettaro in cui l'agricoltore si impegna a rispettare determinate pratiche, il greening e gli altri criteri di condizionalità, riceve un aiuto. Ogni aiuto che è differenziato a a seconda le culture, eccetera. Poi tutto questo già nel 92 venne, come si dice, disaccoppiato, cioè venne sganciato l'aiuto dalla produzione, e quindi oggi l'aiuto è legato al comportamento dell'imprenditore, cioè alle pratiche agronomiche, agli impegni ecologici che l'agricoltore prende, diciamo, come impegno, e riceve questo aiuto che si sostanzia in una in un importo per ettaro, che può variare dai 200, 300, 400 fino a 1000 euro a ettaro. Obblighi a cui deve rispondere l'agricoltore per ottenere l'intera sua quota di aiuti diretti dall'Europa sono la diversificazione delle colture per aziende con più di 10 ettari e la realizzazione di aree di interesse ecologico per almeno il 5% dei terreni posseduti. Il riscontro delle aziende agricole sulla nuova PAC, però, a distanza di un anno dalla sua approvazione, non è positivo. Oltre a una trafila burocratica sempre più ostica, per molti agricoltori sarebbe impossibile rispondere in tempi stretti ai nuovi criteri di sostenibilità, e anche uniformarsi in molti casi significherebbe ridurre eccessivamente la produzione, ci dice il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi. È vero che questa PAC si concentra molto sulla sostenibilità attraverso il greening, ma è altrettanto vero che questo modo di generare sostenibilità è altamente inefficiente, perché provoca riduzione di produzione, abbandono di coltivazioni e un sistema estremamente rigido e burocratico che sta penalizzando molto le aziende. Quindi la vostra proposta quale sarebbe? Stiamo già chiedendo alla comunità di cambiare questo greening e di chiedere piuttosto che le aziende debbano raggiungere degli indici di performance, di sostenibilità, ognuna delle quali, ogni azienda si adatta a seconda della propria situazione ambientale, della propria attività. Per esempio, uno può sequestrare più CO2 perché fa un tipo di coltivazione, quindi rispetta l'ambiente, un altro può decidere di ridurre il consumo di acqua e quindi rispetta l'ambiente, ma entrambi contribuiscono alla sostenibilità. È un concetto nuovo, meno vincolante, meno rigido, che però consente alle aziende anche di essere performanti. Quindi a luglio del 2016 la Commissione si è impegnata a redigere un paper sulla sostenibilità e sugli effetti di questo greening. Vedremo quale sarà l'output e capiremo se abbiamo esagerato o se abbiamo fatto norme che siano inapplicabili. Torniamo quindi a rivolgerci al Parlamento europeo per capire qual è la posizione dell'Europa verso queste difficoltà degli agricoltori e in che modo si può trovare un accordo tra sostenibilità e necessità economiche delle aziende agricole. Ci risponde Daniel Rosario, portavoce ufficiale della Commissione europea per l'agricoltura. It was not the European Commission that invented the rules. The rules were agreed. Non è stata la Commissione europea a inventare le regole, ma i governi dei Paesi membri, compresa l'Italia. Il compito della Commissione è fare in modo che le regole vengano rispettate. Una delle nostre priorità è quella di semplificare le procedure, senza però allontanarci dagli obiettivi di sostenibilità che l'Europa deve raggiungere. Per venire incontro alle aziende agricole, la Commissione europea ha deciso di dare ai Paesi membri più tempo per permettere agli agricoltori di presentare domanda per gli aiuti diretti. Sappiamo che le persone stanno facendo i conti con le nuove norme e che non è facile uniformarsi rapidamente, quindi proveremo anche a valutare modi di applicare queste regole in modo più flessibile, ma sempre nel rispetto degli standard di sostenibilità richiesti. In Europa le aziende agricole con più di 10 ettari e che quindi con la nuova PAC devono dimostrare di rispondere ai criteri di sostenibilità sono meno del 20% secondo gli ultimi dati Eurostat. Ma la trasformazione di queste grandi aziende verso modi di produrre più sostenibili è essenziale, perché pur essendo numericamente una minoranza occupano circa 125 milioni di ettari, vale a dire oltre il 70% dell'intera estensione di terreni agricoli europei. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.